Abbiamo presentato 4 proposte di legge di iniziativa popolare e sono state depositate 6 mesi fa e abbiamo avuto un percorso di partecipazione molto importante nella fase iniziale della presentazione che ha permesso di raccogliere 7.000 firme, quindi 2.000 oltre il limite che la Regione poneva come minimo per il deposito delle firme. C'è stata quindi una partecipazione molto buona. Purtroppo in questi 6 mesi la Regione, che avrebbe dovuto avviare le discussioni all'interno delle commissioni consiliari competenti, non ha avviato questa discussione. Quindi la legge prevede che le 4 leggi oggi arrivino in aula. Abbiamo avuto notizia che questo in realtà non avviene oggi. In ogni caso noi chiediamo che prima della discussione in aula ci sia comunque un esame di merito da parte delle commissioni, quindi ci sia una lettura dell'articolato, una discussione, eventualmente anche la modifica, ma che non si proceda immediatamente a una discussione che potrebbe, a nostro avviso, anche portare a una bocciatura dei testi. Ecco, le 4 leggi riguardano temi ambientali cruciali. Sì, le 4 leggi riguardano: uno, lo stop al consumo di suolo; la seconda, l'acqua in termini di favorire la ripubblicizzazione del servizio idrico; la terza, sui rifiuti, che ragiona rispetto alla minimizzazione dei rifiuti non riciclati; e la quarta, sull'energia, per spingere sulle energie rinnovabili. Quindi tutti temi fondamentali, a maggior ragione rispetto alle drammatiche vicende che viviamo in questi giorni. Sostanzialmente diciamo che bisogna invertire la tendenza delle politiche nazionali e regionali, bisogna contrastare il cambiamento climatico, mettere mano al dissesto idrogeologico e bisogna, come dire, favorire i beni comuni e i beni pubblici. Ecco, rispetto a questa situazione noi veramente diciamo che è grave il fatto che in qualche modo in 6 mesi le commissioni consiliari non abbiano trovato il tempo, il modo per esaminare le proposte di legge. Anche in questi giorni sentiamo dire ci sono gli ambientalisti del no. Bene, noi abbiamo presentato proposte per precise, chiediamo che vengano esaminate, si possa fare una discussione di merito, chiediamo a questo punto che appunto vengano rimandate nelle commissioni consiliari e di poter anche svolgere un confronto con l'insieme della maggioranza che governa questa regione. Il tema è quello ovviamente della partecipazione popolare. Pensate che, come dire, alla politica regionale non interessi? Ma allora, per quello che sappiamo, la regione ha tra i suoi pilastri quello della partecipazione, ha delle politiche dedicate. Noi ci siamo, come dire, spinti a immaginare un esercizio di partecipazione dal basso che ha avuto un risultato davvero importante, quindi diciamo sarebbe abbastanza contraddittorio se poi la regione ignorasse quello che è stato svolto insieme ai cittadini. Quindi insomma, questo mi sembra anche da solo un motivo buono per cui insomma l'assemblea prenda contezza di queste proposte di legge e si avvii una discussione di merito perché siano poi effettivamente insomma incluse all'interno della normativa regionale. Faccio notare che sostanzialmente la prima volta che viene presentato un pacchetto di proposte di legge con il sostegno di 7.000 cittadini è un po' la prova della legge regionale sulla partecipazione, che dice esattamente che nel momento in cui vengono presentate proposte di legge di iniziativa popolare queste vengono discusse. Ecco, allo stato attuale, se dobbiamo dare un giudizio, noi vediamo il fatto che in realtà rispetto a questa espressione che c'è stata da parte dei cittadini dell'associazione non c'è allo stato attuale una volontà sufficiente di dar corso a un elemento vero di discussione di partecipazione. Allo stato attuale mi sento di dire che se così fosse, se non si rimedia, se non si riporta la discussione nelle commissioni, ecco, ci troviamo sostanzialmente di fronte a una legge che dice si possono fare le proposte di legge di iniziativa popolare, ma che non avrebbe nessun effetto.